cartellone di Elisabetta Fiorito. Aggiungi un posto a tavola e c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Se ridi al nuovo ospite, lo farlo andare via. Buono per andare via. Nell'interpretazione speciale di Johnny Dolelli, Lorella Cuccarini, Gianni Morandi e Paola Cortellesi, Cartellone vi dà il buongiorno con il ritorno di un grandissimo musical, Aggiungi un posto a tavola. E proprio dove debuttò a Roma al Teatro Sistina, ritorna al Teatro Sistina il 2 dicembre per stare per tutte le feste natalizie fino al 10 gennaio e ad interpretare Don Silvestro, il figlio di Johnny Dolelli, Gianluca Guidi. Buongiorno Gianluca. E anche interprete è Maurisa Laurito. Buongiorno Marisa. Buongiorno, buongiorno. Allora Gianluca Guidi, che cosa vuol dire fare oggi Don Silvestro? Esistono ancora questo tipo di preti di campagna? Oddio, non lo so, toccherebbe chiederlo a loro, perché non è che io li frequenti poi così tanto, però presumo che ci siano un tipo di preti, senza dubbio, che hanno assolutamente, cioè dovrebbero nella loro etica essere un po' quasi tutti come Don Silvestro, insomma. Tanto è vero che Dio si rivolge a lui, insomma, quindi è un prete che rassicura anche il Padre Eterno. Che rassicura il Padre Eterno, un paese di montagna, mi scuso con i radioascoltatori, e il Padre Eterno lo chiama e dice che ci sarà un altro diluvio universale, giusto? Il secondo diluvio universale, esattamente, sì. E Don Silvestro è un novello Noè. È il novello Noè perché deve costruire un'arca e salvare il suo paese da questa distruzione totale. Insomma, poi ovviamente alla fine il diluvio non ci sarà perché Silvestro convince il Padre Eterno a salvare la sua gente, e così Dio, il Padre Eterno, ferma il diluvio e la vita torna come prima, ecco. Quindi lui contratta, al contrario di Noè, il fatto che non ci debba essere il diluvio. Questa è poi la chiave di volta. Lui scende dall'arca, e quindi adesso io al momento non posso scendere dall'arca con la cima perché ho l'epicondilite al braccio sinistro, ma normalmente dovrebbe scendere con la cima dall'arca e tuffarsi tra la sua gente e dire: Signore, purtroppo io non posso abbandonare i miei amici. Una commedia musicale in due atti, scritta nel 73 dal duo famosissimo Gary Ray e Giovannini. Marisa Laurito, che ruolo interpreti? Consolazione, è praticamente una specie di Satana. Niente, è una prostituta che arriva a disturbare la situazione che ha costruito sia Dio che Don Silvestro, no? Quindi un diavolo, la parte del diavolo. Una specie di diavoletto, una specie, io la vedo un po' come un diavoletto. Una tentatrice, ma sì, una tentatrice. Ti riconosci in questo ruolo di tentatrice? Beh, assolutamente no, ma insomma facciamo gli attori per questo. Sicuramente una parte di me sarà tentatrice, non c'è dubbio, però diciamo che il ruolo è un ruolo di una prostituta. Io ho tentato di farlo così, con leggerezza, e tento di farlo con leggerezza e con ironia. È una prostituta anche, come dire, gioviale, ecco, non so com'è. Quindi in questo però il carattere aiuta Marisa Laurito. Certo, sì, sicuramente. Gianluca, si canta ed è fondamentale il fatto di cantare. Che cosa vuol dire recitare nel ruolo che fu di tuo padre 20 anni fa? 30 anni fa? 35 per esattezza. Beh, insomma, è una grande soddisfazione personale, ma proprio personale personale, nel senso che poi io ovviamente ero la sera della prima di Aggiungi posto a tavola, io ero al Sistina, avevo 7 anni, e vidi questo meraviglioso spettacolo con questo signore che parlava. Don Silvestro per me era un po' come Batman, come l'Uomo Ragno, non so, era un supereroe della mia infanzia. Chiaramente reinterpretarlo adesso è un fatto molto piacevole, sotto il profilo proprio della professione personale, ecco, non c'è nulla di esteriore in quello che sto dicendo, proprio un fatto di un piccolo cerchio che si chiude con me stesso, poi per il resto vedremo, ma per quanto riguarda la mia di vita invece insomma è una cosa molto importante. Che ruolo ha avuto il duo Garirei-Giovannini negli anni 60-70 nella commedia musicale? Mancano due attori così oggi, contemporanei, che magari potrebbero scrivere delle commedie così o sono ineguagliabili? Credo che ogni autore appartenga al suo tempo, alla sua epoca. Garinei e Giovannini hanno costruito il teatro musicale italiano dagli anni 50 fino al 90, agli anni, insomma, fino al secolo, già oltre il secolo nuovo. Sì, probabilmente oggi mancano gli autori per scrivere una cosa del genere, però devo dire che mancano talmente tante cose oggi che francamente due autori forse insomma la cosa meno importante. Magari mancano anche un po' i fondi. No, dei fondi. I fondi del FUS, no? Mancano talmente tante cose che insomma non so, saprei più dove girarmi a scegliere. Marisa Laurito, mancano due attori come Garinei e Giovannini, no? Abbiamo sentito Gianluca che ride, ci prende un po' in giro. Mancano degli autori, oggi si sa che insomma c'è una carenza di autori, ma anche perché non c'è la palestra che c'era una volta, prima c'erano molte produzioni e quindi di conseguenza c'erano autori, attori bravi, maestri, perché naturalmente era un momento in cui si poteva appunto imparare attraverso il lavoro. Oggi veramente tutto è molto più complicato, mancano fondi, mancano appunto queste palestre, mancano i maestri molto. Uno dei motivi per cui mi è piaciuto, a dire il vero, entrare in questa compagnia è anche quello di incontrare Landi, che è un grande professionista e maestro, Johnny Dorelli, che ha fatto una supervisione di questo testo, e poi comunque anche ritrovare Trovaioli, che è un grande personaggio. Insomma, poi non abbiamo parlato della Fiasri, che anche ha scritto insieme a Garinei e Giovannini questa commedia. Insomma, devo dire che comunque questa è una, come dire, è la serie A, è la classe A dei musical, quindi stiamo parlando della prima categoria, ecco. Allora, ricordiamo che da mercoledì 2 dicembre fino al 10 gennaio al Teatro Sistina di Roma ritorna Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini. Abbiamo sentito con Gianluca Guidi e Marisa Laurito. Poi sarà a Napoli, poi al Teatro degli Arciboldi a Milano, a Trieste, a Bari, Varese e Bergamo. Insomma, una lunga tournée. E allora verremo a vedervi. Ciao Marisa, ciao Gianluca. Io ti sogno di notte, Clementine. Io ti inseguo di giorno, Clementine. Io ti chiamo per nome, un nome che significa no. Invece tu non ti accorgi di niente, se ti guardo tu niente, se ti parlo tu niente, in assoluto tu niente. Ed è un peccato che proprio io, che sono io, dovevo innamorarmi, non sbagliato, accidati a me. Peccato che sia, peccato, peccato. Se tu non fossi tu, amarti senza scrupoli potrei, ma se non fossi tu, persino in Dio, al punto di inventarmi peccati mortali per parlare con te. Peccato che sia, peccato, peccato. Clementina? Che mi voleva? No, devi andare a casa, non te lo far più dire, ti prego. cartellone. Qualcuno di voi me lo sa dire? Come mai un uomo, appena incontra uno scemo, diventa subito scemo come lui? Non appena si trova impelagato nelle questioni d'amore e dopo aver sghignazzato delle scempiaggini degli altri innamorati, diventa l'argomento del suo stesso dileggio, innamorandosi pure lui. E questo è quello che è accaduto a Claudio. Benvenuto! Chi è? Ma chi è? Vi ho visto! Quello che sentite è Molto rumore per nulla di William Shakespeare, il Teatro di Roma, Compagnia Lavia, lo porta questa sera a Treviso e anche domani. A Treviso, al Teatro Comunale, la regia è di Gabriele Lavia, l'interprete è Lorenzo Lavia e anche tra gli interpreti Federica Di Martino. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Allora, che cosa succede in questa commedia di Shakespeare? Perché poi alla fine si risolve tutto quanto bene. Sì, no, si risolve tutto bene. In realtà questa commedia di Shakespeare, appunto Molto rumore per nulla, è, se spiegarla in maniera così molto semplice, diciamo, è la storia di quattro innamorati, però è un pochino di più. Ci sono chiacchiere, no? Si parla di virtù perdute che poi invece vengono, diciamo, ritrovate. Shakespeare in Molto rumore per nulla affronta il tema dell'essere o non essere per la prima volta. Quindi è molto più complesso. Tutti pensano che sia una commediola, invece Molto rumore per nulla probabilmente è uno dei testi più complessi di Shakespeare, e sicuramente il primo, che parla appunto del famoso essere o non essere, che poi viene sviluppato nell'Amleto. Però se in Molto rumore per nulla si affronta il tema del femmineo, del mascolino, del doppio, è un testo molto complesso. Il suo personaggio lei interpreta Benedetto. Esatto. Che sfaccettatura ha? Benedetto, se dobbiamo raccontarlo in maniera così semplice, è un giovane ragazzo che torna dalla guerra e odia Beatrice, ma la odia perché è innamorato di lei, e Beatrice odia lui perché è innamorato di lui, molto semplice, e alla fine si innamorano, se dobbiamo raccontare il personaggio. Invece, se vogliamo raccontare cos'è proprio il vero personaggio, Molto rumore per nulla comincia con la fine di una guerra, che è la cosa più importante, la fine di una guerra, e Beatrice come prima battuta dice: io voglio essere un uomo. E invece l'uomo, che è appena tornato dalla guerra, è stanco di essere tra virgolette l'uomo dell'immaginario femminile che va in battaglia, ma cerca la pace e la serenità. E questo Beatrice all'inizio non riesce a capirle, ha un'immagine dell'uomo completamente sbagliata da quello che l'uomo è in realtà. Non solo una macchina guerra, non a caso lo spettacolo comincia con la fine di una guerra. Quindi insomma un testo molto molto duro, come dice lei. Ma in realtà perché è vero che in Molto rumore per nulla è uno spettacolo dove bisogna ridere dall'inizio alla fine, appunto, è un fallimento. Però è molto, tutti pensano che sia una commedia così, che una commediola, invece no, è molto è complessissimo, è sempre Shakespeare. Ci hanno scritto migliaia di saggi su Molto rumore per nulla, quindi voglio dire, ne ho letto uno di René Girard poco tempo fa, quindi proprio su Molto rumore per nulla, che è un grande filosofo francese, quindi voglio dire, infatti resto sempre un po', non so mai bene cosa rispondere quando mi dicono di cosa parla Molto rumore per nulla, perché Molto rumore per nulla più o meno l'abbiamo visto anche al cinema, Kenneth Branagh, sono quattro ragazzi che si innamorano, Benedetto, Beatrice, Claudio e Ero. Claudio crede che si sta per sposare con Ero, però crede che Ero ha tradito Claudio e quindi all'inizio litigano, i due invece che litigano dall'inizio si amano, e su questo scambio ci hanno scritto milioni e milioni di saggi addirittura, perché in realtà poi questa cosa del fatto che Ero e Benedetta all'inizio si odiano e poi si amano e gli altri due personaggi l'esatto opposto, se ne è parlato per moltissimo. Allora, sentiamo Beatrice, qual è la difficoltà di questo ruolo Federica Di Martino. Ecco, sì, sì, ci sono. E, la difficoltà di questo ruolo mi riallaccia al discorso che stava facendo Lorenzo. Tutti i personaggi nel Molto Rumore per Nulla sono mascherati. Beatrice dall'inizio si mostra per ciò che vorrebbe essere, ma per ciò che in realtà non è. Lei dice: vorrei essere un uomo perché è una donna moderna, una donna che vorrebbe emanciparsi dalla condizione della donna del tempo, quindi vorrebbe poter agire come un uomo, vorrebbe poter combattere, infatti c'è anche un duello, lei risponde con la spada alle proposte amorose di Benedetto, però in realtà è una donna che ama, cioè dall'inizio è una donna spaventata dal sentimento d'amore che prova e quindi che lo maschera con un'apparente virilità. E questo avviene anche oggi, perché come al solito Shakespeare è eterno in questo. È attualissimo, è attualissimo. Infatti la bellezza di questo personaggio è proprio questa, che è una donna disgraziatamente moderna, perché noi, non so, questo è un problema di molte mie coetanee, no? Siamo costrette a snaturarci, cioè a andare contro per poter vivere nella realtà contemporanea, ad andare contro una naturale femminilità che invece in qualche modo ci sarebbe dovuta. Regia di Gabriele Lavia, che cosa vuol dire lavorare col proprio padre? Grazie a Dio lui ha fatto solo la regia e sta a Siena col Macbeth, quindi benissimo. Io sono a Treviso, lui è a Siena, quindi va benissimo. Ma non è che rischia ogni tanto, non so, di volare qualche sedia dal palcoscenico perché rifà fare le battute più e più volte proprio perché lei è suo figlio? No, le battute più e più volte, quando uno in realtà, non lo so, forse quando c'è, no, ormai non ci penso più perché sono anch'io abbastanza grande, ma quando si lavora in realtà bisogna portare a casa lo spettacolo, quindi non è che c'è molta differenza, voglio dire, io dico sempre che quando mi fanno questa domanda c'è il salumiere sotto casa mia, litigano molto più loro due, padre e figlio, per come tagliano il prosciutto, che io e mio padre per come facciamo lo spettacolo, quindi voglio dire, è tutto molto relativo. Quando uno lavora, quindi non si pensa al grado di parentela, proprio non si pensa, perché poi in realtà poi questo è un lavoro dove alla fine devi farlo bene, comunque c'è sempre 800-1000 persone ogni sera e devi farlo bene, non è che perché non hai il tempo di pensare. In questo è proprio lavoro e basta. Ricordiamo Molto Rumore per Nulla, un modo per scoprire questa commedia, ma non solo, come ci ha spiegato Lorenzo Lavia, di William Shakespeare, oggi e domani ancora al Teatro Comunale di Treviso, poi invece la prossima settimana al Teatro Argentina di Roma. Grazie Lorenzo, grazie Federica. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Nicola, un umor nero, vivo come in un incubo. Se pensa com'è fatta la società degli uomini, dappertutto non vedo che intrigo, adulazione, iniquità, interesse, astuzia, tradimento. Io non ne posso più, io perdo la ragione. Vorrei spaccar la testa io al genere umano. Mio Dio, com'è incivile questo interrogatorio. E poi scusate tanto, un po' di intelligenza. Io so chi preferisco, lo so perfettamente. E adesso andiamo a Roma, dove fino al 6 dicembre al Teatro Vascello è in scena Il Misantropo di Molière, regia di Paolo Zuccari, e uno degli interpreti è Michele Bevilacqua. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Come sta andando lo spettacolo e quale ruolo interpreti? Allora, lo spettacolo sta andando bene, abbiamo fatto 3 repliche e questo ci dà prova del fatto che si possono ancora fare dei classici senza annoiare le persone, senza annoiare il pubblico. E io faccio un piccolo ruolo, faccio il ruolo di un marchese e poi di un curiosissimo Dubois che è il suo assistente, quindi è un po' un mascherone, molto, molto divertente. Di che cosa parla Il Misantropo? La storia del misantropo è sostanzialmente una storia d'amore che si ambienta in una diciamo così, Molière l'ha scritta ovviamente nel 600, ma è assolutamente attuale, e le cose che vengono dette sono sembrano scritte per i nostri tempi, quindi la storia si svolge nell'arco di una giornata. Quest'uomo, il misantropo che si chiama Alceste, vuole stare con la donna di cui è innamorato, ma è ostacolato da qualsiasi cosa, quindi dalle persone che questa persona frequenta, e anche questa grandissima difficoltà di confrontarsi con una donna totalmente diversa da lui, perché lui è un uomo fin troppo rigido nella sua moralità, mentre lei è superficiale, ipocrita, e spande il suo miele dove può per questo desiderio di essere accolta, riconosciuta, e quindi l'uomo si innamora di questa difficoltà, di questa contrapposizione. Lei non si capisce se lo tradisce o meno, scrive biglietti a tutti, e lui è sempre in lotta con questa sua ovviamente debolezza, perché poi in realtà è la debolezza dell'uomo. Senti, caratteristica di Molière è sempre stata quella di prendere, per esempio, spunto da un personaggio come il malato immaginario, come il misantropo, eccetera, per criticare la società in quel momento contemporanea. Quello che ti chiedo, quanto queste critiche dell'epoca di Molière sono ancora tutt'oggi valide? Io vi inviterei, ho anche preparato alcune scene dove quello che viene detto sembra scritto per oggi. Molière è un autore di parola e le fa piroettare, e la cosa pazzesca, ed ecco l'urgenza del nostro regista Paolo Zuccari di raccontare un qualche cosa che è assolutamente odierno, attuale, perché si menziona nient'altro che quello che accade in continuazione ciclicamente, quindi non c'è stato neanche bisogno di adattarlo il testo. Allora, ricordiamo, Michele Bevilacqua interpreta uno dei protagonisti del Misantropo di Molière, in scena fino al 6 dicembre al Teatro Vascello di Roma a Monteverde, con regia di Paolo Zuccari. Ciao Michele. Grazie a voi. Cartellone. E adesso andiamo a Milano per Giorgio Gaber, al Piccolo Teatro, dal 26 novembre fino al 14 dicembre è in scena questa retrospettiva sul grande cantautore milanese. Ma quest'anno c'è qualcosa di particolare, sì, perché uno spettacolo proprio che parla del grande signor G è interpretato da una donna, e pensare che c'era il pensiero nell'interpretazione di una grande attrice, Maddalena Crippa, che sarà in scena mercoledì e giovedì al Piccolo Teatro di Milano. Marta Cagnola ha intervistato Maddalena Crippa. Qual è stato il suo lavoro per reinterpretare dal materiale di Gaber il suo Gaber? Ma penso che per il pubblico sia una curiosità e un fascino in più di vedere come il suo materiale funzioni o abbia senso, oppure prenda un altro punto di vista interpretato da una donna. Io non ho scelto, non ho fatto una scelta di fare le cose che mi piacevano di più, ma mi sono proprio confrontata con uno spettacolo del suo Teatro Canzone, in particolare Pensare che c'era il pensiero. Però ho voluto una libertà di costruire appunto la mia scaletta all'interno dello spettacolo, di fare dei tagli, di sostituire delle cose, di intervenire in maniera, come dire, autonoma, senza cambiare una riga, per intenderci, ma ovviamente anche dando una mia impronta al materiale. Dopotutto l'avrebbe fatto anche lui spesso rileggeva, rielaborava. Sì, appunto, questo è stato necessario anche perché, ripeto, Gaber, avendo lavorato molto sulla contemporaneità proprio del tempo in cui cui viveva. Ovviamente certe cose sono sorpassate, nel senso che sono cambiate le figure politiche, per esempio, o i riferimenti o gli avvenimenti, e dunque questa cosa mi è sembrata legittima, appunto a maggior ragione perché sono donna, per cui certe cose anche cioè prettamente maschili le ho dovute togliere, no? Perché ovviamente non funzionavano con me. I personaggi sono cambiati, però le parole di Gaber sono sempre valide. Devo dire oggi più che mai, se allora erano necessarie, oggi sono urgenti, perché la situazione è degenerata al punto che secondo me è proprio salutare, fa proprio bene, perché poi lui, ripeto, era un artista che secondo me aveva questa grande onestà della sua ricerca, del suo interrogarsi, del suo analizzarsi personalmente, singolarmente e socialmente. Questa è una ricchezza grande che risuona oggi, anzi oggi in questo deserto, in questa omologazione totale, questo mondo che va sempre più verso uno spegnimento della dimensione artistica e personale di unicità, invece un grande tesoro. Tra l'altro un tesoro molto milanese. Milano è ovviamente presentissima. Sì. Lei è milanese, oddio, mi piace dire anche che è brianzola, essendo sì, no, anch'io. Sono però è ovvio che ho mosso, tra l'altro, ecco, questo lo sottolineo sempre perché mi sembra troppo bello. Nel senso che in qualche modo io sono nata al Piccolo quando avevo 17 anni e sono un'attrice che poi ha approdata la canzone. Ecco, Gaber era un cantante che in qualche modo poi è approdato al teatro, e grazie al Piccolo, perché allora Paolo Grassi, quando lui fece questo salto triplo mortale rispetto alle canzonette che faceva, inventando, perché lui ha proprio in quanto autore inventato il teatro canzone, che è un nuovo modo di stare in scena dialogando, riflettendo e cantando con il pubblico, l'ha fatto al Piccolo, perché c'era un signore che era Paolo Grassi che ha detto vieni, fallo qui. E all'inizio non lo seguiva nessuno, perché dopo Gaber ha avuto le folle oceaniche che lo seguivano, ma ovviamente all'inizio, quando c'è, come dire, un cambiamento così totale, non c'erano le folle, anzi, eppure Grassi ha detto continua, vedrai, e infatti poi è scoppiato il Gaber grande, no? In questa dimensione. E allora c'erano queste figure che sapevano riconoscere l'arte e gli artisti. C'è una vena di nostalgia per una Milano e per un'aria che non si respira in questo momento. Lei non è pessimista, però, spero. No, è certo che no. Il mio apporto sicuramente è in questo materiale, recuperare, perché poi all'interno del discorso gaberiano ci sono gli elementi, in ogni caso, di revanche, di speranza, di tirarli fuori, e io credo che in questo Gaber è forte e ha senso e ha valore. In questo tempo siamo chiamati tutti alla nostra responsabilità, per esempio appunto per difendere l'arte, gli artisti, la cultura. Questo è veramente minacciato, e dunque niente è dato per scontato. I diritti o le cose che abbiamo acquisito non sono acquisite per sempre, vanno difese, cioè bisogna uscire da questo torpore narcotico in cui ci hanno sepolto. Io sono speranzosa, perché poi è pieno, secondo me, invece di fermento e di talenti e di possibilità, e che ovviamente non vengono fuori, perché se non sei oggi vengono fuori i cronisti, e dunque cioè questo è il problema, no? Ma per questo vale la pena di insistere, lottare e fare le cose che valgono. Pretendo le scuse. Ma quali scuse? Ma vedendo. Ah, sono io sono venuto qua per lavorare, non per questionare. Allora, o me ne mandate torno, stimati! Lo vedi che ci rioca pure! Ah, io ci riocco, lo sapete che faccio, mo sono io? Vado dal pizzardone qua all'angolo, gli dico che è stata a fare un bel abuso, così la famo proprio finita. Che fai, per i gatti? Ver comunista che sei. Sono comunista solo quando avete capacità voi, eh? Vabbè, dai, damo centaio. Su, stringete la mano. Ah, ma che, davvero? Ah, Mario, per favore, eh. A proposito, ma con l'ispettorato tutto a posto? Prima delle sbrighe è meglio, Che se qualcuno fa la spia, gli tocca da venire. Io posso coprire fino a un certo punto. E poi, papà, mi metti pure in imbarazzo. Ma tu lo sai che mi stanno per fare capo ufficio? Tutta una carriera improntata all'inflessibilità. E apposta, dico, di a tua moglie di sta volta. E soprattutto, dei nostri là, non bisogna attirare l'attenzione. Tu mi insegni Basta chiudere e poi Dio provvede. Teatro Vittoria, siamo a Testaccio a Roma e siamo davanti alla scenografia che viene montata per lo spettacolo di Per fortuna una notte di luna, regia di Stefano Messina, testo di Gianni Clementi. Stefano Messina, di che cosa parla questo spettacolo in due atti? Quattro fasi storiche recenti, si parte dall'allunaggio. Sì, si parte dal 21 luglio del 1969, siamo in un quartiere di Roma, in un condominio romano su questa terrazza, una stupenda notte di luna e gli abitanti di questo palazzo, che poi praticamente è una famiglia, la famiglia Palmieri, organizza su questa terrazza una riunione familiare per assistere tutti insieme all'evento televisivo dell'anno, all'allunaggio, quindi porteranno sul televisore i tavoli, i vettovaglie da mangiare, eccetera, eccetera. Questo perché la madre vuole in qualche modo riunire questa famiglia che, insomma, famiglia che esistono dei conflitti fortissimi, politici, dei conflitti anche musicali. Siamo, no, 69, ad agosto ci sarà Woodstock, c'è un momento politico, uno spartiacque, no, nella nostra storia, non solo insomma italiana. Poi si passa invece ad altre fasi della storia. Esatto, si passa poi, si va avanti di qualche mese, novembre del 69, che prelude poi quello che sarà il dicembre della strage di Piazza Fontana. Poi si passerà al 78, che coincide con il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro, per arrivare al 93, che coincide con la fine della Prima Repubblica. Io vedo dei bidet in scena su questa scenografia grigio e bianca e poi dei calcinacci, delle attrezzature da muratore. Che cosa vuol dire? Perché su questa terrazza c'è un muratore comunista che sta chiamato da Achille, il proprietario, che sta facendo un abuso, e questo abuso scandirà il passaggio del tempo, nel senso che da questa piccola mansarda che sta costruendo arriveremo man mano negli anni al 93, dove questa terrazza sarà completamente ricoperta da questo abuso e praticamente occuperà tutta la terrazza. Questo a significare che sono stati anni in cui la speculazione edilizia ha trionfato, le brutture, le bruttezze hanno, insomma, invaso la nostra vita, tant'è vero che questo poeta disturbato alla fine sarà l'unica persona che riuscirà in qualche modo a salvarsi da questa gigantesca luna che poi alla fine inghiottirà tutto il brutto che è stato creato e volerà tra le stelle insieme a Neil Armstrong. Ma voi, compagnia di attori e tecnici, siete famosi a Roma e anche tutta Italia per produrre spettacoli molto molto divertenti, comici, leggeri. Questo spettacolo invece è un po' diviso in due, tra un primo atto più ridanciano e un secondo atto più riflessivo, potremmo dire così? Sì, noi abbiamo parlato, abbiamo scandito, diciamo, i tempi che abbiamo scandito, no? Adesso nello spettacolo non è una tragedia nello assoluto, perché abbiamo parlato di Piazza Fontana, Moro, però questo, insomma, passa l'autore a volo d'angelo proprio, no? su questi fatti più salienti, che sono veramente sfiorati. La vicenda è quella familiare. Abbiamo un primo tempo che sicuramente è più divertente, anzi molto molto molto divertente. Il debutto, insomma, abbiamo contato 50-60 grandi risate in un'ora di spettacolo. Nel secondo tempo, diciamo, man mano che passano gli anni, il clima si incupisce in qualche modo, le risate non mancano, ma sono risate sicuramente più amare. Uno spettacolo che più va avanti e più graffia con molta durezza, insomma. Con Stefano Altieri, Paola Giannetti, Massimiliano Franciosa, Annalisa Favetti, Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola, Renato Scarpa, Roberto Valerio, Emanuela Fresi. Ricordiamo, regia di Stefano Messina, Per fortuna una notte di luna, fino al 20 dicembre al Teatro Vittoria a Roma. Guarda, adesso è proprio un... Un insensibile, ecco che sei. Eh beh, certo, quella sensibile sei te. Te il psicologo. Voi due sì che siete sensibili. Ah, orga, questa sono 3 anni che vado al psicologo. E più sta e più... Dice 3 anni. Ma tu lo sai che ci sono dei tipi d'analisi che possono durare anche tutta la vita? Ecco, allora scegliamolo un altro, Pepito. Perché io mi sono stufato di pagare qualche. La Olga, sono 3 anni che pago, 3 anni. Cartellone. Bastavano un momento da bocca o da capa, bastavano un lampo da luce. Faceva una radiografia e poi si passavano i lastri. E sui pilastri c'erano 2 gambe, a 2 spade, a 2 piedi e a 2 culo. Che si mettesse insieme tutte quelle lastre, pareva fotografia in un mostro. Picchi, mani, braccia e piedi mancavano sempre. Tante volte mancava la capa. E a volte mancavano pure i gambi o i piedi, secondo se la lastra avevano scartato. Allora, quello che sentite è Saverio La Ruina in uno spettacolo particolarissimo, L'Aborto, che è stato a Roma e che sta adesso girando l'Italia e questa sera sarà a Calenzano in provincia di Firenze al Teatro Manzoni, per poi riprendere il 12 dicembre a Morano Calabro, a Mormanno, a Castrovillari, a Reggio Calabria, a Taranto, insomma in tutta Italia, per finire poi a Napoli. Saverio, tu interpreti il ruolo di una donna, per quale motivo? Beh, guarda, perché diciamo io non avrei fatto un ruolo femminile così, diciamo, solo per narcisismo d'attore, poi insomma noi attori un fondo di narcisismo lo abbiamo tutti quanti, però è perché c'è una ragione anche profonda. Avrei fatto fare, diciamo, il testo, l'avrei fatto interpretare a un'attrice tranquillamente se non ci fosse implicato l'uomo in un modo così pesante. E siccome in questo caso, appunto, nella ragione nel tema, sul tema dell'aborto, per me la domanda proprio di inizio del lavoro è stata durante gli aborti delle donne, dove erano prima, durante e dopo gli aborti gli uomini? Perché ritengo che comunque ci sia fortemente implicato sia per formazione culturale sia per una sessualità, insomma, specifica, e penso che ci sia una grandissima responsabilità appunto da parte degli uomini, che spesso viene sfuggita, quasi sempre, diciamo magari oggi un po' meno, ma comunque quantitativamente non molto di meno. Poi, allora io su quella sedia sono imputato, sono veramente, rimango, infatti non, diciamo, non imito completamente una donna, non abdico al fatto che l'uomo comunque sia visibile, cioè io come io Saverio, io attore, proprio perché sono imputato dentro il problema. Penso, per come la penso io, più della donna. Senti Saverio, questo monologo alterna delle fasi molto divertenti a dei momenti tragicissimi, direi struggenti. È stato scritto da te in calabrese stretto, sì. Quindi è un po' difficile da seguire, però poi alla fine il testo si capisce, come abbiamo sentito. Questo ti pone dei problemi, per esempio in Nord Italia? Diciamo, non è stato un problema a Roma. In qualche modo penso che se il problema nasce è perché io quel giorno magari non sono stato abbastanza efficace, se non succede non è un problema del pubblico ma è un problema mio, nel senso che se riesco proprio ad instaurare una comunicazione vera, che poi il tentativo che faccio ogni volta che rappresento lo spettacolo, penso che il problema della comprensione sia completamente superato. Certo, se mi agito e non visualizzo quelli che sono appunto i significati, le situazioni, i personaggi che sono appunto dentro la storia, chiaramente il pubblico fa fatica a visualizzarli, ma altrimenti insieme a quella parola che perderà, come la perderanno anche altri calabresi di altre zone, insomma è un non sarà un problema, come non lo è stato per Dissonorate, che è il mio spettacolo precedente, che è stato fatto tantissimo al sud ma ancora di più al nord, e come adesso si prospetta comunque una tournée forse più ricca al nord che al sud. Quindi se non ci si spaventa delle prime parole, è quello che poi quello che succede è che effettivamente il pubblico riesce a capire tutto, perché c'è questo insieme appunto di testo, anche di ripetizione, che è una caratteristica proprio del personaggio, comunque di ripetere sempre certi significati, ma allo stesso tempo anche della forza poi del dialetto e anche una gestualità che in qualche modo rende chiare le cose. Aiuta, insomma. Aiuta. Ricordiamo che appunto questa sera a Calenzano al Teatro Manzoni, poi dal 12 dicembre si riparte a Morano Calabro, il 23 a Mormanno, per arrivare anche, come abbiamo sentito, a Napoli, ma anche a Milano al Teatro dell'Arte dal 9 al 21 marzo. Un testo struggente, molto tragico, che denuncia la piaga degli aborti clandestini nella Calabria di alcuni anni fa, ma non così tanti. Grazie Saverio La Ruina, un testo scritto da te per tutte le donne. Grazie Saverio. Perdiamoci in un'isola deserta, l'isola di Robinson. Ma com'è l'isola di Robinson oggi? Perché un tempo era l'isola dove l'uomo viveva a contatto con la natura. Oggi andiamo a scoprirlo questa sera al Teatro dei Calanchi al comune di Lubriano, in provincia di Viterbo. Luca Ricci dirige Robinsonade. Buongiorno Luca. Buongiorno, ciao, salve. Com'è quest'isola di Robinson oggi? Beh, l'isola di Robinson è probabilmente sommersa da una quantità enorme, sono più di 1000 sacchi di spazzatura, ma non solo perché esiste realmente nell'Oceano Pacifico, pare un'isola costruita da rifiuti grandi quanto il Texas, ma in realtà perché del libro di Defoe a noi aveva colpito soprattutto quest'idea che Robinson fosse un escluso, qualcuno che viene gettato fuori, un rifiuto in qualche modo della società, perché lui non risponde ai precetti che il padre vuole da lui, insomma, via dicendo. Quindi l'idea è che quest'isola sia un luogo dove finisce tutto ciò di cui nel mondo in cui viviamo ci liberiamo in qualche modo. Quindi un'isola contaminata, un'isola inquinata? Sì, soprattutto un'isola dove è sempre più difficile dare a sé questo nuovo inizio di cui poi il libro di Defoe parla, perché alla fine la storia di Robinson, quella originale, insomma, è una storia di grande ottimismo della possibilità per l'uomo di ricominciare da capo e di ritrovare, insomma, proprio la propria capacità imprenditoriale quasi, no? Proprio un libro che apre un po' l'idea del capitalismo, dell'uomo che crea il proprio destino. E invece avere questo spazio così pieno, cioè denso di buste, sono proprio dei sacchetti bianchi di plastica, diventa quasi dal lato abbagliante per la forza del bianco che ha in qualche modo, ma diventa anche complicatissimo perché la plastica è proprio uno degli elementi che comunque tu lo metta, comunque tu lo giri in qualunque maniera, poi ritorna nel suo stato iniziale, non riesce mai a costruire qualcosa che rimane, e quindi questa è la grande difficoltà con cui si scontra il nostro Robinson. Ricordiamo allora Robinsonade, sabato 28 novembre, Capotrave e regia di Luca Ricci a Viterbo, nella rassegna E se il teatro diventa incivile, per parlare di un'Italia dimenticata, rimossa e difficile, Teatro dei Calanchi, comune di Lubriano, in provincia di Viterbo. E ricordiamo alcuni appuntamenti a Bologna. Si inaugura oggi alle 18 alla Galleria Spazio Gianni Testoni Depero e Deperimenti ludici di Albano Morandi, un omaggio a Fortunato Depero nel centenario del futurismo con l'artista contemporaneo Albano Morandi. Ricordiamo invece che al Teatro Spazio 1 di Roma fino al 6 dicembre è in scena Il Leone d'Inverno di James Goldman. Insomma, un spettacolo da non mancare per la regia di Rosario Tronnolone. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it. Un buon weekend, buoni spettacoli a tutti da Elisabetta Fiorito.